Per questo ha subito molte minacce da parte degli integralisti islamici e nella notte del 7 gennaio, mentre sta rientrando a casa da Potenza, un'auto lo affianca e parte un colpo di pistola. Si salva, ma la paura è tantissima. Michele Albini lo ha intervistato subito dopo questo attentato per Italia in Controluce. Nell'Origa lei è stato fortunato. Come ha fatto a schivare i colpi? Io mi sono salvato perché ho dato un'accelerata con la mia macchina, ma hanno nell'accelerazione della macchina il colpo ha colpito la parte posteriore della macchina, ma bastavano due centimetri. Cioè, visto lo spazio tra un finestrino anteriore e posteriore, no? Bastava che loro colpissero lì, era in agguato a tutti i livelli. Avevi motivi per temere che si potesse arrivare a questo? Ma sì, perché ho avuto diverse minacce. Cioè, la cosa è stata sottovalutata, perché ho un sistema di sicurezza che ovviamente è molto scarno, come puoi vedere, no? È molto scarno. Io stanotte, dopo aver fatto la denuncia, dato la mia macchina ai carabinieri, sono tornato a casa senza nessuna scorta. Ti sembra normale? E adesso? Adesso sto aspettando che il Ministero, dove è già in valutazione il mio caso, mi assegni la scorta. Perché l'unica cosa per vivere, io non ho bisogno della macchina, dell'autista o della benzina, io ho bisogno di vivere tranquillamente come vive un essere normale, però questo oggi non è possibile, perché come vedi prima mi hanno mandato le lettere minatorie, i proiettili, un mese fa a Potenza, scardinando la porta eccetera, e ieri e stanotte hanno tentato di uccidermi. Pensi che siano sempre gli stessi autori? Sono sempre, la matrice è sempre islamica. La matrice islamica, io ho scritto un libro sull'Islam. La mia paura è che ci sono anche degli emulatori, no? Quindi sempre islamici, perché ovviamente girando, parlando, il mio nome nei siti islamici è molto conosciuto, in negativo ovviamente. L'unica cosa che oggi lo Stato può fare, cioè tu saliresti nella macchina domani mattina andare al lavoro a Radio 24 sapendo che qualcuno ti può sparare? Questo è un agguato, io mi sono salvato perché l'istinto mi ha fatto accelerare. Ma adesso è più la rabbia o più la paura? Entrambe. Io ho paura perché, lo confesso, ho paura, perché mi sono salvato per miracolo, ma al tempo stesso ho rabbia perché lo chiedo da diversi mesi e siccome le cose sono vere, no? Cioè, io mi sono salvato, la rabbia, che è anche felicità a un certo punto, è che mi sono salvato solo per un istinto che ho avuto di accelerare. Cambierà qualcosa ora nelle tue abitudini e nella tua vita professionale? Assolutamente, io non voglio cambiare nulla. Non voglio cambiare nulla perché sarebbe un arrendersi a chi nega la libertà di espressione. Cioè, noi nel nostro DNA di giornalisti abbiamo la libertà di espressione. Io ho scritto un libro sulle incongruenze dell'Islam, no? Che può essere trattato in sede penale se ci fossero delle diffamazioni, giusto? Ma non posso oggi arretrare di un attimo. Io questa sera avrò una presentazione del libro, tra l'altro il libro sostiene un progetto umanitario, quindi non lo faccio neanche a scopo commerciale, ma io stasera sarò lì, cioè domani sarò lì, la settimana prossima sono in Toscana. Quello che importa è che lo Stato ti assista però a questo punto. Che mi assista, perché io non voglio cedere, perché se cedessi non sarei un giornalista e non sarei un uomo, perché avrebbero vinta loro. Ma poi tanto, quando hanno deciso di ucciderti, anche se tu stai buono e tranquillo, ti uccidono lo stesso, no? E poi è dentro me stesso il fatto di non voler cedere di un millimetro. È una questione di, non so, di dignità professionale. Io voglio continuare a farlo, perché fa parte del nostro DNA, credo. La libertà di espressione deve essere garantita a tutti. Poi io posso essere d'accordo o non d'accordo con Magdi Cristiano Alla, posso essere d'accordo con Rajdi, posso essere d'accordo o meno con Riga, no? Giusto? Ma nessuno si può prendere questa decisione di decidere sulla tua vita. E se io oggi non facessi questa presentazione, sarebbe la sconfitta. Io spero che lo Stato dia una risposta, perché oltre questo c'è solo la morte. Italia in Controluce, seconda edizione. L'archivio di tutte le puntate lo trovate sul sito radio24.it e sullo stesso sito trovate anche il blog di Italia in Controluce, poi il gruppo su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, quello su Twitter con i programmi quotidiani di questa trasmissione, la mail contoluce@radio24.it. Torniamo domani con nuovi reportage e nuove storie su Radio 24 alle 6.30.